città, strade vuote come i miei pensieri, e la luna su nel cielo riflette i tuoi desideri. Dove sei? Cosa fai? Con chi stai? Dove sei? Cosa fai? Con chi stai? E sono sempre più solo, avvolto da questa oscurità. Mi manca l'aria, mi batte il cuore, ho solo voglia, voglia di te. Dove sei? Cosa fai? Con chi stai? Dove sei? Cosa fai? Con chi stai? Forse è un sogno, ma ti vedo in fondo alla strada, e io corro verso te, ma tutto svanisce e mi ritrovo sempre solo. Dove sei? Cosa fai? Con chi stai? Dove sei? Cosa fai? Con chi stai? Dove sei? Cosa fai? Con chi stai? Dove sei? Cosa fai? Con chi stai?